La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Buongiorno a tutti. Benvenuti alla prima volta. Questa è una puntata particolare, forse non è adatta ai bambini. Oggi parliamo di Corea del Nord. Quello che colpisce chi entra a Pyongyang è il senso di ordine, pulizia, silenzio, rigore. È come entrare nella casa dove vivono tanti bambini e trovarla in perfetto, quasi inquietante ordine. La Corea, i suoi bambini, cioè la sua creatività, la sua vivacità e la sua libertà, l'ha chiusa in luoghi inaccessibili, nei quali si compiono le più incredibili brutalità. Ed è in questo clima di terrore e di delazione che gli altri, i liberi, vivono. Shin Dong-yuk la libertà non la conosce. Lui è nato nel campo di prigionia 14 ed è lì che ha vissuto la sua infanzia, vedendo prima e subendo poi direttamente le peggiori violenze. Il suo corpo è segnato. Le caviglie sono state deformate dai ganci usati per tenerlo appeso a testa in giù durante l'isolamento. Ha dei marchi su tutto il corpo provenienti da ustioni. Non riesce ad allungare le braccia perché i lavori forzati gliele hanno deformate e gli manca un dito nella mano destra. Gli è stato mozzato. E ha tante altre ferite delle quali non riusciamo neppure a parlare, ma sono quelle dentro le peggiori ed emergono subito quando gli chiediamo di parlarci della sua infanzia. Sinceramente non ho niente da, diciamo, non ho tanto voglia di ricordarmi della mia infanzia, perché ero in campo di concentramento in qualità di, diciamo, un figlio di un crimine politico. Quindi in quella situazione non ho potuto fare niente come volevo, non ho potuto mangiare come volevo. Ho fatto soltanto le cose che mi hanno costretto a fare. Quindi, diciamo, i miei ricordi sono questi frammenti. Diciamo, non ho niente, non ho tanta voglia di ricordarmi questo periodo che ho passato nella mia infanzia. La storia di Shin è più amara del previsto, forse anche peggiore di quella di altri bambini del campo 14. Dopo giorni di torture, ha dovuto infatti denunciare sua madre e suo fratello e ha dovuto poi assistere alla loro impiccagione. Ha subito poi ennesime torture, fino a quando, stremato, è riuscito a convincere i suoi aguzzini che lui no, non sarebbe fuggito. E invece Shin è fuggito. E non ha lasciato in un armadio gli scheletri, i ricordi più dolorosi li ha messi a disposizione di noi tutti, sperando che qualcosa si sblocchi, che qualcuno si muova, perché nel campo 14, in Corea del Nord, ci sono migliaia di persone che stanno morendo e lui vaga per il mondo a raccontare senza sosta la sua storia, come avviene in questo caso che sentiamo quando Shin parla davanti all'Assemblea delle Nazioni Unite. I stand here today and have received an award that is beyond my imagination. In the world today, sono qui oggi a ricevere questo premio per il mio lavoro sui diritti umani, una situazione che va oltre la mia immaginazione. Soltanto 7 anni fa io non sapevo esistesse questo mondo. Pensavo che tutto fosse prigionia, guardie, violenza. Pensavo che la vita fosse il campo. Sono capace oggi di ricordare e di vedere questo mondo in cui sto vivendo, un mondo in cui le persone sorridono, sono in pace. Il mio compito è parlare di mio padre e di tutti i prigionieri ancora chiusi nel campo, perché stanno soffrendo, non possono vivere in pace e serenità. Sui loro volti non compare un sorriso. Oggi ho accettato questo riconoscimento perché è un modo per continuare a parlare di loro, perché anche voi sappiate che c'è tanto da fare, che bisogna far uscire dalla sofferenza del campo di concentramento queste persone. Aiutateci, è molto importante. Non smetterò mai di combattere perché tutte quelle persone escano dai campi di prigionia Romania sarà la mia ultima parola. Per favore, aiutateci e salvate i miei amici. Grazie. Please help them and save my friend. Thank you very much. Quello che le voglio chiedere è innanzitutto come ha fatto a fuggire. 특별하게 무슨 어떻게 탈출할 계획을 가지고 탈출한 건 아니죠. 그냥 무모하게 그냥 per fuggire da questo campo di concentramento non ho stabilito un piano preciso. Poche parole, ho provato questa fuga. Con un po' di azzardo, avendo sentito le notizie del mondo esterno, allora mi è venuto l'idea di mangiare le cose come voglio, quanto voglio, e per questo ho tentato superare quella recinzione elettrificata sfinata. È vero, è soltanto ho provato questa fuga per mangiare bene, per stare bene. Io ci sono riuscito con una grande fortuna, però gli altri miei amici non ci sono riusciti. In realtà comunque io non avevo nessun programma preciso per tentare questa fuga, soltanto l'ho fatto così per caso, perché la voglia di stare bene, mangiare bene, è che mi ha spinto così. 목표나 계획은 없이 그냥 탈출했던 게 그냥 성공한 것뿐이죠. Sua famiglia è ancora lì, sta ancora vivendo lì. Che effetto le fa pensare a questo? 아버지도 계속 썼고 친척들도 이제 quando sono fuggito da questo campo di concentramento ho lasciato indietro mio padre e poi anche i miei parenti. Immagino che loro subiscano ancora in questo momento grande difficoltà, anche tortura, poi anche il trattamento molto atroce e crudele. Comunque in questo momento io tramite quella organizzazione ONU sto organizzando una cosa per avere notizie su mio padre, e quindi hanno chiesto al governo Corea del Nord di come stesse il mio padre, però il governo nordcoreano non ha mai fatto una risposta. Sì, so che per causa della mia fuga che tutti i miei vicini, compreso mio padre, sta trascorrendo mille difficoltà, e per questo mi sento molto mortificato. Spero che mio padre ancora viva, e poi quando sarà annientato questo campo di concentramento spero di rivederlo. 아버지가 또 살 계신다고 하게 되면은 뭐 언젠간 정치권 성수가 뭐 없어질 거기 때문에 다시 만나고 싶은 마음이 굉장히 크고 뭐 그냥 그런 마음들이죠. La prima volta. Questa è la storia di un bambino nato e cresciuto fino a 22 anni in un campo di concentramento della Corea del Nord. Cresciuto nella violenza, abbandonato al suo destino. Un bambino che, nonostante la fame e gli stenti, riuscirà a crescere ed elaborare un progetto di fuga. Una storia che ci porta con il muso a terra a una realtà fatta di abusi, violenze, schiavitù e tortura. La Corea del Nord è definita da Human Rights Watch e Amnesty International uno dei paesi con il livello di rispetto dei diritti umani più bassi del mondo. Quella nordcoreana è una tra le più brutali dittature. Nel maggio del 2011 Amnesty International mostrò al mondo intero le immagini satellitari ad alta definizione dei campi di prigionia nordcoreani, fotogrammi rinforzati dalla testimonianza di chi è riuscito a fuggire. Here comes the sun, little darling. Tra questi c'è anche Shin Dong-hyuk, nato e cresciuto al campo 14. Non sapeva che il mondo fuori correva a un'altra velocità. Non conosceva telefoni cellulari, internet, TV. Non sapeva nulla, Shin. Pensava che la vita fosse quella che stava vivendo lui. Pensava che fuori, in altri campi, altri bambini stessero vivendo la stessa cosa, la stessa violenza. Questo fino a 22 anni, quando Shin, assieme a un compagno di prigionia, tenta la fuga. Il suo compagno morirà folgorato dal filo elettrificato. Shin ce la farà. Da anni Shin Dong-hyuk gira il mondo per raccontare la sua esperienza, ispirando documentari e libri come Fuga dal campo 14 del giornalista americano Blaine Hard. Shin non sa bene cosa rispondere quando gli si chiede di descrivere la felicità, perché ci dice la vera felicità, se mai verrà, sarà quando tutti i prigionieri nordcoreani saranno liberi. Sarà un giorno storico anche per noi, che viviamo nel caldo delle nostre facili indignazioni. Grazie all'intervento di Shin, le Nazioni Unite hanno istituito la prima commissione d'inchiesta. Dopo averci raccontato la vita del campo e la fuga, chiediamo a Shin di raccontarci la prima volta da uomo libero. Ho trascorso la mia vita più del campo di concentramento che in questo mondo democratico. Io ho visto soltanto pochi anni in questo mondo e quindi mi sto adattando alla società moderna. Per questo in questo momento non sono in grado di dire di cosa ho provato sulla libertà. Sto imparando tante cose e poi mi sto ambientando in questo mondo moderno. Per questo non so molto bene cosa mi sto provando, ma potrò dire queste cose più avanti. Quando è uscito dal campo di prigionia e si è messo in salvo, le prime cose che ha fatto da uomo libero? A rispondere a questa domanda mi imbarazzo, perché dopo essere uscito a scappare via da questo campo di concentramento, ancora avevo fame, era proprio pieno d'inverno. Non so, ho fatto tante cose quell'istante, quindi non mi ricordo bene che cosa avevo fatto, soltanto mi ricordo di avere molto fame. Lei sta andando in giro per il mondo a raccontare questa storia perché in fondo spera di riuscire a salvare tutte le persone che ancora oggi sono nei campi di prigionia in Nord Corea. Sta ricevendo forza da questi incontri che sta facendo in giro per il mondo? Sto facendo in giro tutto il mondo, anche visitando anche ONU, poi anche varie nazioni, per raccontare della realtà della Corea del Nord, specialmente quella di campo di concentramento, dove hanno fatto radunare tutti i crimini politici. È vero che sto vedendo qualche ballurme di speranza, sembra che la situazione del Corea del Nord non sia cambiata affatto. Però in questo momento la cosa importante è questo. Dopo la mia missione, che faccio ricordare tutte queste violenze, tutto questo dolore alle persone, sto convincendo le persone di ricordare tutta questa atrocità e poi orrore che accadono in questo momento nel Corea del Nord, a tutto il mondo. E quindi vedo che le persone cominciano a pensare e poi cominciano ad avere interesse sulla realtà disumana, di modo che non si ripetano di più nella storia. Che cosa si aspetta dal futuro? Insomma, come lo vede il futuro lei? Da poco mi sto godendo la vita privata, quindi non ho avuto il tempo di pensare al mio futuro. Solo ora dovrò fare dei programmi per il mio futuro. Ma l'unica cosa che voglio dire in questo momento, la speranza, anche l'unica speranza è questo. Vorrei dare qualche contributo finché questo campo di concentramento non scompare. E poi volevo chiedere anche al governo Corea del Nord di spiegarmi perché io ho dovuto portare quel crimine che non ho mai avuto io, ma che il crimine che hanno commesso il mio padre e mia madre. Solo questo. Prima ho 지금 당장에 그게 내가 생각하는 그 목표라고 얘기하시는 거죠. Ci fermiamo qui. Non è stato facile raccontare questa prima volta che materializza gli incubi peggiori e contemporaneamente dà un senso profondo alla parola libertà. Il mio pensiero va a tutte le persone che vivono in una condizione di prigionia, che questa vita abbia anche per loro un passo lieve a un certo punto, nella speranza, sempre ingenua, che il mondo non debba più raccontare storie come questa. Grazie per essere stati con noi. Scriveteci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Seguiteci su Facebook. Ci risentiamo domenica prossima alle 13.30. Ciao a tutti, da Cristina Carpinelli. Dancing with the missing, dancing with the dead, dancing with the invisible ones, the anguish is unsaid. Dancing with